5M. Ascolta e rispondi. Ha salutato me o ha salutato te? Ha salutato me. Ha invitato noi o ha invitato voi? Ha invitato noi. Ha aspettato lei o ha aspettato lui? Ha aspettato lei. Hanno avvertito noi e non hanno avvertito voi? È vero, hanno avvertito solo noi. Hanno ricevuto lui e non hanno ricevuto lei? È vero, hanno ricevuto solo lui. Hanno abbracciato loro e non hanno abbracciato te? È vero, hanno abbracciato solo loro.